Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuta a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri, seguito del precedente Le avventure di Bianca e Bernie del 1977. Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri è un film del 1990 ed è considerato il 29esimo classico Disney. La trama è abbastanza simile al film precedente, ed è sempre basata sulle storie omonime di Marjorie Sharp. Un ragazzino australiano di nome Cody trova il nido di una rara aquila dorata, ma verrà catturato da un perfido bracconiere per scoprirne l'ubicazione. L'esca utilizzata dal bracconiere per catturare Cody è un topo, che subito si metterà in contatto con la Società di Salvataggio Nazionale dei Topi, di cui fanno parte Bianca e Bernie. Quindi Miss Bianca e il suo partner Bernie decidono di partire alla volta dell'Australia, proprio per aiutare questo bambino. Dopo varie peripezie, i nostri eroi riescono a salvare Cody e l'aquila, e Bernie alla fine chiede a Miss Bianca di sposarlo. Questo sequel, benché abbia una storia molto semplice e anche molto simile a quella precedente, perché comunque si tratta sempre di loro che devono aiutare dei bambini, ebbe un discreto successo. Ma una cosa molto interessante della sua distribuzione fu il piccolo corto che misero all'inizio del film. Molti film Disney avevano all'inizio della proiezione alcuni corti sempre prodotti dalla Disney. Quello di Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri era il famoso corto di Topolino nel Principe e il Povero, che ebbe anche molto successo. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate. Scommetto che sarà ripreso fra 5 minuti. Calmati, piccolo amico. Guardami, sono libero. Frank, prendi le chiavi. Oh, le chiavi, giusto. Sono bloccato. Frank, non urlare. Sta zitto, cretino. Fermati, non ti muovere. Ti libero io. Ecco fatto. Ora, vai a prendere.